quando le faccia la verità. Ti rendi conto che non è finita la nostra guerra, la nostra realtà. Tanto vuole ogni certezza, ogni valore anche l'alta. La nostra vera sicurezza, il nostro cuore non morirà. La nostra vita non è più tempo per viverlo ormai. E quando cerchi una via di uscita ti resta conto che non l'avrai mai. Tu serrati il sguardo incantato, attaccata tu non cederai. Dentro di te ti senti più forte, ma che non ti accade non te ne dai. Interpretato.